Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Lunedì 1 febbraio, buongiorno di nuovo a tutte e tutti e ben ritrovati sulla nostra trasmissione Liberi Dentro e Duradio a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici tra la città e il carcere. La voce che vi arriva è quella di Caterina Bombarda, qui alla conduzione con voi, ma con me c'è sempre Ignazio De Francesco. Buongiorno Ignazio da Montessori. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra trasmissione che parla, come diciamo sempre, al carcere e alla città e fa ponte tra questi due quartieri della nostra vita comune. Buongiorno. Esatto. Siamo sempre in onda su Teletricolore, canale 636 alle 10.30 e alle 9 su Radio Città Fujiko, canale 103.1. E apriamo sempre questa mattina con la cronaca bianca e vorrei anche giustificare un po' il taglio di queste notizie che noi diamo, perché naturalmente le notizie sul carcere sono notizie non sempre felici, anzi, delle volte ci destano tanta riflessione, tanto spavento anche per quello che stanno vivendo in questo momento i detenuti. Però il taglio di queste notizie, che sono più che altro di buone prassi, vero Ignazio, di buone pratiche sociali molto buone, anche di quelle che possono essere, per così dire, tra virgolette, le buone notizie che ci possono venire da questo ambiente, sono quelle che noi vogliamo dare anche per chi ci ascolta tra la città e il carcere, per dire che innanzitutto il carcere non è tutto bianco o tutto nero, ci sono varie sfumature di colori, e poi anche per invogliare la cittadinanza che ci ascolta da dentro siccome diamo anche notizie di utilità sociale, a praticare quelle che sono per esempio lo sportello di ascolto, lo sportello sanitario, i mediatori culturali, a sapere come fare quando si trovano in questa situazione di detenzione e ad avere anche le notizie a livello nazionale di quelle che sono le carceri nella nostra Italia, ecco. E infatti oggi vi presento le notizie da Milano, dove l'università va in carcere, il titolo di questo articolo pubblicato sul quotidiano TPI a cura di l'autore dell'articolo Lorenzo Zacchetti, che scrive appunto, parla di questa convenzione tra l'Università Statale di Milano e le carceri lombarde. I detenuti hanno finalmente la possibilità di iscriversi a costo ridotto e di partecipare ai laboratori insieme agli studenti esterni. E la cosa bella di questa notizia che cito è che il professore Stefano Simonetta, che ha dato adito a questo percorso per i detenuti, è riuscito a praticarlo perché proprio a partire da una storia personale in cui lui è venuto in contatto con un detenuto albanese che gli aveva detto della difficoltà di studiare, lui stava preparando gli esami universitari mentre si è dentro il carcere, e quindi a partire da questa storia personale questo professore è arrivato a ottenere la convenzione con la Statale di Milano, permettendo agli studenti detenuti di iniziare questo progetto. Ora sono 5 gli studenti detenuti iscritti, ma aumenteranno, e vi dico soltanto che il 30% degli iscritti è composto da stranieri, quindi in prevalenza balcanici, ma anche sudamericani e asiatici. Questa è una bella notizia per i detenuti, per l'istruzione stessa e per l'università. Ma ora do la parola a te. Ma io mi collego a quello che tu dici per dire che ci sono due nomi che circolano adesso per l'Europa, per il mondo, e sono i nomi di due turchi, Ugur Sahin o Eslem Tuereci, non so se ho detto bene in turco, qualcuno mi corregga, sono marito e moglie, sono, diciamo così, gli inventori del vaccino Pfizer che sta circolando per l'Europa, per il mondo, e ci aiuta a combattere questa grave emergenza sanitaria. È una storia di migrazione, sono arrivati piccoli, sono figli di immigrati, arrivati in Germania con la madre, all'età di 4 anni, lui è diventato professore universitario, un grande oncologo, la moglie una ricercatrice come lui, si sono sposati, ma sembra che il giorno del matrimonio erano già in laboratorio per lavorare. Quindi per dire che le storie di immigrazione sono storie di costruzione terra comune, della patria comune, che è il mondo. Ma ora devi lanciare il brano musicale che ci accompagnerà questa settimana. Sì, questa settimana siamo con Umm Kulthum, che è una delle grandi stelle della musica araba. Tutti la devono conoscere. Chi conosce l'arabo, chi non sa l'arabo. E la seguiremo per tutta la settimana, cantante, musicista, attrice. I suoi album sono ancora vendutissimi. E ascoltiamo un bellissimo testo, Alf Leila wa Leila, Mille e una notte, Umm Kulthum. الليل والسماء والنجوم وقمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي انا حياتي انا كلنا في الحب سوا Rieccoci sempre su Liberi Dentro dopo lo stacco musicale. Io mi scuso perché siamo tutti lavorando da casa, vero? Anche tu, Ignazio, c'è una ripresa bellissima dietro di te con una libreria. Io anch'io ho la mia libreria, il mio studio, ma sopra di me stanno facendo i lavori, per cui ogni tanto qualche smartellamento lo sentirete anche voi tra la città e il carcere. Vi rendo partecipi di queste cose. Ma vi rendo partecipi anche di quello che sta succedendo in Piemonte in queste ultime settimane, dove il garante dice appunto di aprire una casa famiglia protetta per mamme detenute. Ecco, quindi entriamo nel tema forte di quella che è la detenzione. Delle giovani donne, anche madri e anche dei minori. Si contano attualmente 400 giovani detenuti nei 17 istituti penali minorili italiani e c'è appunto si avverte l'urgenza di prevedere luoghi e modalità diverse per l'esecuzione delle pene, soprattutto di queste pene legate a madri e giovani. E quindi si chiede di sostenere appunto la possibilità di edificare una casa famiglia in Piemonte e sarebbe la terza in Italia, se il progetto verrà approvato, dopo quella già operativa a Roma e a Milano. E è un progetto sostenibile, sarebbe sostenibile grazie alla legge di bilancio che prevede infatti di creare un fondo per accogliere i genitori detenuti con i propri figli. Ma veniamo a te, Ignazio, e continuiamo il discorso sulle virtù. Io riprenderei, ripartirei dall'ultimo incontro della volta scorsa, in cui si mettevano in elenco i sei grandi nemici della pazienza, che in arabo si dice sabr, e sono il ghadab, il malal, il tamah, il jazaa, il khawf e l'ajala. Allora, l'ira, la noia, la brama di avere cose, la disperazione, l'ansia, il timore, la paura e la fretta, e la fretta. E credo che ciascuno di noi si possa identificare, ognuno di noi al suo punto debole. Per esempio, Caterina, quale sarebbe il tuo punto debole sulla pazienza? Prova a dirlo con sincerità. Sicuramente l'ansia, cioè, mi candido L'ansia. all'ansia. Sì. Al jazz. Bene, allora, cominciamo a vedere come si trattano questi nemici della pazienza. Ovviamente facciamo riferimento alla tradizione araba, quindi parliamo in arabo in questo punto della trasmissione, però, come abbiamo detto, qua non è questione di arabi o musulmani, sono delle notazioni che sono di carattere universale. Allora, vediamo per esempio il ghadab. Il ghadab, l'ira, è un grande nemico di Sabr, della pazienza. Come trattiamo l'ira? Come vinciamo l'ira? Allora, la prima arma per vincere l'ira è l'arma del silenzio. Allora, sentite in arabo, iltizamu samt, falizzanu fi hal al-ghadab, tasdur minhu al-kalimati bil-infial, wa la yuqimu waznan lima yasdur anhu min al-kalam. Traduciamo, impegnarsi a tenere il silenzio. Perché la persona nella situazione di ira gli vengono fuori delle parole, ecco, con infial, con una certa forza, con una certa foga, e non è capace di misurare, ecco, di fare una esatta misura di quello che le parole che gli escono fuori. Come dire, gli apre la diga e le tira fuori di tutte. Allora, in questi momenti dell'ira è meglio non lasciare spazio alla parola, e c'è questo detto molto importante, la tradizione araba islamica, che dice: Ida radiba ahadukum falyaskut. Se qualcuno è arrabbiato, stia zitto. Questa è la prima, io direi così. Mi fermo qui, Caterina, ma direi che c'è da pensare. Quando ti stai per Direi di sì. Si arrabbiare, pensaci un attimo, dice puoi conta fino a continuare. 10, Conta quindi fino a stai 10, zitto, esatto. quindi stai zitto. Bene, è l'ora del nostro secondo stacco musicale e siccome abbiamo parlato di minori in carcere, di detenzione anche di madri, abbiamo parlato della virtù, di ciò che minaccia la pazienza, io lancerei un brano pop di Cat Stevens, molto famoso, si chiama Father and Son, padre e figlio, e dice una cosa molto bella a un certo punto: è l'ora di fare un cambiamento, e speriamo che sia così anche per noi. Musica. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. E rieccovi su Liberi Dentro. Ora, sulle note del brano musicale di Cat Stevens, vi introduco alla pillola di ASP Città di Bologna, che, come sapete, è l'azienda pubblica di servizi alla persona della città di Bologna, che collabora con noi dall'inizio di queste puntate del 2021 di Liberi Dentro Duradio. Quindi do la parola a Lorenzo e a Fabio, che oggi intervistano per noi Massimo Ziccone, il direttore dell'area pedagogica del carcere della Dozza di Bologna. Ascoltiamoli. Ciao a tutti, io sono Fabio. E io Lorenzo. Oggi per la nuova pillola sul mondo del carcere parliamo con Massimo Ziccone, il direttore dell'area educativa del carcere di Bologna. Vedremo assieme come questo dipartimento lavora quotidianamente per costruire percorsi riabilitativi per le persone detenute. Vai con la pillola. Allora Massimo, la prima domanda che noi ti facciamo è la seguente. Quali sono, diciamo, le opportunità che una persona detenuta può cogliere all'interno del carcere attraverso l'area educativa? E collegato a questo ti chiedo anche, quale ruolo viene colto dai detenuti e che visione hanno loro dell'area educativa, dal tuo punto di vista e dalla tua esperienza? Sono attività che noi dobbiamo proporre non soltanto nel programma, ma poi dobbiamo realizzarle queste attività, perché altrimenti avremo poco da proporre, perché siamo sempre noi a dover anche realizzare le attività che poi andiamo a proporre. Ora, queste attività sono riepilogabili per filoni: ci sono attività lavorative, di formazione professionale, attività ricreative, culturali, sportive. Curiamo molto i rapporti con la famiglia, soprattutto quando i rapporti con la famiglia tendono ad essere complicati dalla situazione detentiva, per ovvie ragioni. Possono vedersi poco tra padri e figli, o a volte ci sono i figli dentro il carcere e i genitori sono fuori. Quindi facciamo anche degli interventi su questo ambito. Tra le attività ci sono anche quelle religiose, indicate dall'ordinamento penitenziario, che è un po' la nostra Costituzione, diciamo. Chiaro. Ecco, nell'ordinamento penitenziario c'è anche questo aspetto che viene curato, e quando parliamo di religione non si intende solo quella cattolica, ma tutte le religioni, naturalmente. Ecco, tutte queste attività devono essere organizzate. Ovviamente qui stiamo parlando di persone che non possono andare fuori, ma le devono fare all'interno del carcere, quindi vanno organizzate all'interno, e quello che è il nostro obiettivo è di creare una sorta di palinsesto di attività, sì, in modo che la giornata del detenuto sia anche scandita dalle attività che gli abbiamo proposto e che lui ha deciso di accogliere. Ecco, una delle domande più frequenti che mi fanno è: può scegliersi il detenuto l'attività? In certi casi noi ovviamente teniamo conto sempre delle attitudini e delle richieste che ci fa il detenuto. È anche vero che noi ci sono attività che tutti vorrebbero fare, non so, un'attività lavorativa ben retribuita è molto ambita in carcere. Anche selezionare su base di una serie di elementi, come può essere la lunghezza della pena, l'attitudine è uno degli elementi importanti. Ecco, se per esempio ci sono alcuni detenuti che hanno competenze diverse, magari hanno più di una, non so, cioè chi ha fatto il muratore, ma anche il cuoco, ma anche il meccanico, ecco, a quel punto noi cerchiamo di indirizzarlo verso una di queste attività, magari professionalizzandolo ulteriormente. Uno dei nostri obiettivi è anche di far partire nuove attività che i detenuti magari non hanno mai fatto fuori. Faccio un esempio per tutti, che è il rugby. Noi abbiamo una squadra di rugby che è iscritta al campionato, tra l'altro, di Serie C2 della regione. Facciamo tutte le partite in casa, purtroppo è uno dei vincoli che abbiamo, però abbiamo avuto una risposta molto positiva dalla Federazione Rugby, che ci consente di fare così. L'attività di rugby è molto interessante sul piano educativo, perché consente di... Intanto è uno sport di squadra, e uno dei problemi maggiori che ci sono molto diffusi all'interno del carcere, che c'è una tendenza all'individualismo, a pensare solo al proprio interesse, c'è scarsissima attitudine a lavorare in squadra, e imparare è uno sport proprio in cui, se uno ragiona da individuo senza mettersi al servizio della squadra, non va da nessuna parte. E che ha un grande uso anche dell'energia fisica del corpo, naturalmente. Questo è un altro elemento molto interessante da un punto di vista educativo, perché significa imparare a gestire la forza, imparare a incanalarla, a rispettare le regole anche quando ti scontri, che è una delle cose più difficili. Allora, prima sentivo che si parlava di retribuzione in carcere riguardo ai detenuti. Infatti volevo sapere esattamente come funziona poi nel concreto questo sistema di retribuzione per un detenuto, cioè concretamente come fa ad accedere poi ai vari magari risparmi che riesce a tirar su dai vari lavori che effettua e come può spendere poi quei soldi all'interno del sistema carcere. Allora, intanto sfatiamo un mito che è quello per cui il detenuto è totalmente mantenuto dentro il carcere. In realtà è vero che dorme, in realtà neanche gratis, poi lo spiego, comunque si dice, no, mangia e dorme a spese della collettività. Gli si passa, ovviamente un letto ce l'ha e anche il vitto ce l'ha, il resto spesso se lo deve comprare. Allora, questa è una cosa poco conosciuta all'esterno, appunto perché, ma in realtà un detenuto può avere altri bisogni che non sono solo quello di mangiare e dormire. Come fa a spendere, diciamo, da dove gli arrivano i soldi e come fa a spenderli? Intanto soldi in carcere non ne possono circolare, non possono circolare né soldi né beni di altro tipo, quindi anche i beni che sono del detenuto vengono messi in un magazzino, per intenderci, e gli vengono restituiti all'uscita. Quello che invece succede è che ogni detenuto può avere, anzi, ha un conto, una sorta di conto corrente interno al carcere. Funziona come un conto corrente fuori, semplicemente viene gestito dall'area contabile del carcere, per cui il detenuto con il suo lavoro intanto viene retribuito se lavora, sia se lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, sia se lavora alle dipendenze di aziende che lavorano all'interno del carcere, perché noi abbiamo delle aziende dentro il carcere. Ecco, in tutti e due i casi viene retribuito, e viene retribuito in modo molto simile a quello che accade fuori, quindi secondo, nel caso del dipendente dell'amministrazione penitenziaria, in base a tabelle ministeriali che sono molto simili comunque ai contratti collettivi di lavoro per quel che riguarda l'entità della retribuzione oraria. Per quel che riguarda chi lavora alle dipendenze di soggetti esterni, le regole sono obbligatoriamente le stesse di chi lavora all'esterno, quindi non ci sono regole speciali perché è un detenuto. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro Eduradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti. E dopo aver ascoltato appunto Massimo Ziccone, il direttore dell'area pedagogica del carcere della Dozza di Bologna. Ci salutiamo oggi e vi ridiamo appuntamento domani, martedì, e vi invito sempre a scriverci all'indirizzo liberidentro.duradio@gmail.com oppure alla casella postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. Aspettiamo le vostre lettere, i vostri consigli di ascolto, di letture, di tutto quello che ci vorrete mandare e inviare. Buona giornata e buon proseguimento e a domani.